Il mare salato. Non molto tempo fa, in un villaggio, vivevano due fratelli. Il fratello maggiore era molto ricco, ma il fratello minore era molto povero. Il primo spendeva di continuo, andava a tutte le feste, mentre l'altro non aveva nulla. Neanche abbastanza cibo da mangiare o vestiti da indossare. La famiglia del fratello minore era sempre affamata, perché non avevano soldi. Un giorno decise di chiedere aiuto a suo fratello. Fratello, i miei figli hanno molta fame. Per favore, prestami dei soldi. Comprerò del cibo per loro. Tu vieni sempre qui a elemosinare soldi. Non ho niente da darti. Vattene. Ferito dalle sue parole, il fratello minore se ne andò. Sulla via di ritorno verso casa, incontrò un vecchio che portava della legna. Oh, aspetta! Deve essere pesante. Lascia che ti aiuti. Oh, grazie! Cos'è successo, ragazzo? Sembri così preoccupato. Non so cosa fare. La mia famiglia sta morendo di fame e io non sono in grado di portargli da mangiare. Non posso aiutarli. Cosa faccio? È così? Ti posso aiutare. Se mi aiuti a portare questa legna a casa, ti darò qualcosa che ti renderà ricco. Lo farò. Prese la legna e seguì il vecchio verso casa sua. Grazie, ragazzo. Puoi lasciarla qui. Che Dio ti benedica e ti renda ricco. Il vecchio signore gli diede del pane dolce e disse: prendi questo e vai nella foresta. Camminando incontrerai tre alberi di prugne. C'è una collina dietro quegli alberi. Guardando da vicino, noterai una piccola capanna. Vai dentro quella capanna. Tre nani vivono lì. Amano il pane dolce. Vorranno sicuramente comprarlo da te. Daglielo, ma non chiedere soldi in cambio. Invece, chiedigli un macinino di pietra. Seguendo le istruzioni del vecchio signore, andò nella foresta. Dopo aver incontrato diversi alberi, si avvicinò ad uno di essi. Guardando da vicino, si rese conto che c'erano tre alberi di prugne in fila. Mentre camminava verso gli alberi, vide che proprio dietro di essi c'era una piccola capanna. Entrò nella capanna e i nani cominciarono ad urlargli contro. Chi sei? Come sei entrato? Io sono... Deve essere un ladro. Cosa sei venuto a rubare? Cosa? No, non sono un ladro. Io sono... Proprio allora, i nani videro il pane dolce nelle sue mani. Immediatamente tutta la loro rabbia sparì. Uno di loro disse: oh, dobbiamo avere quel pane dolce. Puoi prendere qualsiasi cosa in cambio. Va bene, vi darò il pane, ma voi dovete darmi il macinino di pietra in cambio. Siamo d'accordo, ma ricorda, questo non è un normale macinino. Mentre macinerai, esaudirà tutti i desideri che chiederai. E una volta che avrai finito, dovrai coprirlo con un panno rosso. Questo lo fermerà. Prese il macinino dai nani e tornò a casa. Non appena fu arrivato, vide che sua moglie e i suoi figli erano a terra, affamati. Chiese rapidamente a sua moglie di stendere un panno per terra. Quindi mise il macinino sul panno e iniziò a macinare. Macinino, oh macinino, dammi del curry, macinino, oh macinino, dammi del curry. Il macinino cominciò a produrre curry, quindi coprì il macinino con un panno rosso e questo smise di produrre curry all'istante. Tolse il panno e cominciò a macinare di nuovo. Macinino, oh macinino, dammi del riso, macinino. Oh, macinino, dammi del riso! In pochissimo tempo, il macinino aveva prodotto un mucchio di riso. Tutti mangiarono a volontà. Ogni giorno, il fratello minore chiedeva al macinino di produrre molte cose. farina, lenticchie, miglio e molto altro. Dopodiché portava tutto al mercato per venderlo. In questo modo guadagnò molti soldi. Presto diventò molto ricco. Costruì una grande casa per sé e per la sua famiglia. Tutti ora avevano nuovi vestiti da indossare. Tutti erano felici, tranne il fratello maggiore, che ora era molto geloso. Come può essere? Qualche giorno fa è venuto a chiedere l'elemosina e ora è improvvisamente così ricco. Qualcosa non va. Il fratello maggiore si nascose nella casa di suo fratello per scoprire la verità. Non ci volle molto tempo perché scoprisse il segreto. Il giorno successivo rubò il macinino e decise di lasciare il villaggio insieme alla sua famiglia. Andiamo, velocemente, forza! Non molto lontano dal villaggio c'era la riva del mare. Raggiunsero la riva del mare e partì con la sua famiglia su una barca per andare su un'isola lontana. Sulla strada decise di provare il macinino. Macinino, oh macinino, dammi del sale, macinino, oh macinino, dammi del sale. Il macinino cominciò immediatamente a produrre sale. Ma ora il fratello maggiore non sapeva come fermarlo. Il macinino continuò a produrre sale. Il peso divenne troppo e la barca affondò con tutti dentro. Se solo non avesse invidiato il fratello minore, il fratello maggiore e la sua famiglia avrebbero potuto vivere felici. Questo è il motivo per cui non dobbiamo invidiare gli altri ed essere felici di ciò che abbiamo. Questo è quello che succede se chiediamo troppo. Non vi confrontate con i vostri amici e non chiedete sempre nuovi giocattoli ai vostri genitori. Oppure non litigate con gli amici perché hanno giocattoli migliori dei vostri. Il fratello maggiore ha fatto lo stesso e abbiamo visto tutti quello che è successo. Ditemi, sarete mai gelosi di qualcuno ora? Mai! Non faremo mai quell'errore! Mai! Non faremo mai quell'errore!